Marta di Betania, una donna che dava priorità alle cose secondarie. Marta era tesa. Un momento prima, 13 ospiti, tutti uomini, si erano riuniti a casa sua e senza preavviso. Si trattava di Gesù, il Maestro, e i suoi 12 discepoli, i quali erano in cammino verso Gerusalemme, che distava soltanto 3 chilometri. I visitatori non erano sconosciuti. Gesù era un buon amico di Marta, di sua sorella e del loro fratello Lazzaro. Egli a volte giungeva anche a tarda notte con i suoi discepoli per stare con loro a Betania. Marta era felice che il Maestro, che non aveva dove posare il capo, si sentisse a suo agio in casa con loro. Essa era ospitale, apriva con gioia la sua casa agli altri e considerava un onore far piacere ai suoi ospiti. Marta lottava con se stessa, mentre si occupava delle necessità di quegli uomini impolverati e affamati, non perché la sua casa non fosse abbastanza spaziosa per tutti, o perché non ci fosse abbastanza cibo nella dispensa. No. Marta era ricca abbastanza. Era irritata perché sua sorella Maria non l'aiutava a servire. Maria era totalmente assorta nell'ascolto del maestro. Beveva letteralmente ogni sua parola. Il suo pensiero dominante era questo: come posso godere maggiormente della sua presenza? Cosa posso imparare? Marta non era meno felice della sorella di avere Gesù con loro, ma non gioiva completamente. I suoi pensieri erano costantemente rivolti a dei dettagli e alle cose secondarie. Ecco perché si lasciava sfuggire l'occasione più grande. Era nervosa, irritata. E, come succede in queste occasioni, trovava dei difetti negli altri. Infatti, molto probabilmente Marta soffriva di autocommiserazione. Signore, disse interrompendo, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Marta non si rese conto che stava accusando sua sorella in presenza degli ospiti, coinvolgendo anche Gesù nell'accusa. E non è tutto. Nella sua osservazione, osò ordinare al maestro di far sì che Maria la aiutasse. La voce del maestro, che fino a quel momento aveva affascinato i suoi ascoltatori, tacque bruscamente mentre egli lanciava uno sguardo penetrante alla donna. Poi disse: Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa fa bisogno. E Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta. Queste poche parole implicavano molto di più di quanto sembrasse. Esse contenevano un avvertimento. Marta, come puoi confondere in questo modo le cose primarie con le secondarie? Come puoi perderti con le cose di poca importanza quando io sono in casa tua? Marta, non capisci che io sono venuto in primo luogo per servire e non per essere servito? Non vedi che mi interessi più tu di un luogo in cui essere accolto e del cibo? Io apprezzo la tua ospitalità, ma il mio primo interesse è per te, non per la padrona di casa. Marta, tu sei efficiente e saggia, perché devi far tutto da sola anche nei minimi dettagli? Non capisci che io preferisco un posto semplice? Nel mio regno la priorità è data alle cose spirituali. Esamina te stessa, conosci il tuo cuore, guarda le cose dal mio punto di vista. Maria, egli continuò, non ha bisogno di ricevere correzioni, tu ne hai bisogno. Ma ti dico questo solo perché ti amo. Le cose temporanee e le preoccupazioni di questa vita soffocano la mia parola, ti impediscono di vedere le cose spirituali. Perciò, Marta, stai attenta a giudicare gli altri. Lascia questo a me. Prova te stessa e giudica il tuo proprio cuore. Parole di un rimprovero d'amore rivolto a donne virtuose, decise, con un'autorità molto facilmente sconfinabile. L'incontro successivo fra Gesù e questa famiglia ebbe luogo in circostanze molto diverse ed estremamente tristi. La malattia e la paura erano entrate in quella casa felice. Lazzaro era seriamente ammalato. Senza esitare, le sue sorelle avevano mandato un messaggio a Gesù, che predicava sull'altra riva del fiume Giordano. Tutto quello che gli dissero fu: Signore, il tuo amico, che ami, è molto ammalato. Esse avevano pensato che Gesù sarebbe accorso subito e sapevano entro quanto tempo gli sarebbe stato possibile arrivare. Ma Gesù rimase lontano di proposito e Lazzaro morì. Dio sarebbe stato glorificato attraverso la sua malattia in modo speciale. Maria e Marta non si sarebbero rallegrate per la guarigione del loro fratello, ma per la sua resurrezione dalla morte. Ma questo era fuori dalla loro percezione e dal loro programma. Perciò le sorelle ripetevano diverse volte al giorno: «Se il Signore fosse stato qui, Lazzaro non sarebbe morto». Poi, quando ormai Lazzaro era ormai sepolto da 4 giorni e la casa era piena di amici desiderosi di dare a loro un po' di conforto, Gesù arrivò con i suoi discepoli. Maria, sopraffatta dal dolore, rimase in casa, ma il carattere di Marta non poteva rimanere nascosto e negare se stesso. Come poteva starsene quietamente in casa mentre arriva il maestro? Impossibile! Marta andò ad incontrare Gesù e ripeté ciò che lei e la sorella si erano dette sovente: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Nelle parole rivolte a Gesù, ancora una volta, come di sua abitudine, Marta pronuncia una sfumatura di accusa, ma esse erano anche un'espressione di fede e di speranza. Infatti ne diede la prova aggiungendo: «Anche adesso so che tutto quel che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Non tutto era perduto. Quando Gesù promise: «Tuo fratello risusciterà», Marta pensò ad un lontano futuro, ma il maestro la mise di fronte ad un fatto schiacciante: lo sono la risurrezione e la vita. Questa risurrezione non offriva soltanto una speranza futura. Era una realtà presente. Questa realtà era personificata dall'uomo che le aveva parlato. Gesù non solo dava la vita, è egli stesso la vita. La risposta di Marta fu una notevole confessione di fede: «Sì, o Signore, credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo». La domanda che tanti si erano posti e che aveva provocato tante divisioni era questa: «Egli il Cristo, oppure no?» Marta diede una risposta positiva, anche se non poteva immaginare che cosa ciò avrebbe implicato. Quello che avvenne dopo è molto commovente. Marta aveva chiamato Maria, la quale venne a salutare Gesù. Entrambe videro che Gesù era profondamente addolorato. Le parole del profeta Isaia, pronunciate 700 anni prima di Cristo, divennero ancora una volta realtà. In tutte le loro distrette, egli stesso fa in distretta. Il Figlio di Dio, che non si vergognava delle lacrime, pianse. Le sorelle e tutti quelli che erano venuti per piangere con loro lo videro. Qualcuno disse: «Guarda come lo amava». Altri furono più critici e osservarono: «Non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche che questi non morisse?» Poi le sofferenze di Gesù vennero in superficie. Egli non soffriva solo perché si avvicinava per lui il momento della morte. Nel sacro momento, in cui dava la dimostrazione della sua vittoria sulla morte, egli soffriva come aveva sofferto durante tutta la sua esistenza terrena. Aveva sofferto per l'incomprensione del popolo. Aveva sofferto per l'infedeltà degli amici. Soffriva per il modo in cui Marta adoperava la sua energia e per il suo modo di interferire. Nuovamente, essa lo interruppe. Infatti, quando Gesù diede ordine di rimuovere la pietra dal sepolcro, lei pensò che fosse necessario ricordargli che Lazzaro, essendo stato sepolto 4 giorni prima, era già in via di decomposizione. Le sue convinzioni erano troppe forti perché le tenesse per sé. E se il maestro si fosse sbagliato? Ma il maestro, anche questa volta, sopportò Marta. «Non ti ho io detto che se credi, tu vedrai la gloria di Dio», disse Gesù. Al suo grido: «Lazzaro, vieni fuori!» la morte lasciò la sua preda. Lazzaro uscì fuori dalla tomba, fasciato come venivano bendati i morti a quel tempo, e comparve davanti a loro vivo. Potevano vederlo e toccarlo. Gesù, poco prima biasimato perché ritenuto insensibile al dolore dei suoi amici, stava in realtà dando prova della sua amicizia al popolo di Betania, a rischio della sua propria vita. La sua libertà infatti era limitata. Egli doveva cercare un rifugio per non cadere nelle mani dei farisei e dei capi sacerdoti prematuramente. Entro poche settimane sarebbe morto sulla croce. Sarebbe morto non solo per i peccati di Lazzaro, Marta e Maria, ma anche per peccati di tutto il mondo. Se i giorni prima della morte di Gesù Marta serviva al banchetto dato in suo onore, la storia è raccontata in poche parole. Marta non aveva cessato di servire. Non era caduta da un estremo all'altro. Era una donna dal carattere sorprendente. Le meravigliose caratteristiche dell'ospitalità e della disponibilità a servire erano ancora evidenti. Ma era anche una donna la cui fede con la morte di Lazzaro aveva superato la prova. Era anche una donna coraggiosa. Rimase fedele al Signore nel tempo in cui la collera dei giudei era più terribile e sarebbe sfociata nella sua condanna a morte. Gesù l'amava. Estese a lei l'onore della sua amicizia. Colui che conosceva tutti gli uomini sapeva che le persone come Marta possono soffrire anche senza cause esterne, semplicemente per il loro carattere. Sapeva che una donna buona, intelligente, energica come lei poteva inciampare facilmente per aver voluto andare troppo lontano, per aver voluto interferire. Marta doveva stare molto attenta a non perdersi in cose di secondaria importanza e a non volere che la vita andasse sempre secondo il suo punto di vista. Le donne come Marta hanno un particolare bisogno di Gesù e solo il grande Maestro può insegnare loro ad evitare di dedicare la vita a cose buone sì, ma secondarie. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti,